A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Peter Bescapè in regia per questa puntata di A Tempo di Sport. Vi do subito due delle notizie freschissime di cui parleremo in ordine cronologico e dall'ultima realizzata. La tennista russa Svetlana Kuznetsova ha vinto il Roland Garros, secondo slam in carriera, ha battuto la connazionale Elena Dementieva, dunque è la Kuznetsova, la regina della terra rossa francese, del Roland Garros, in attesa della finale di domani, che vedrà di fronte il solito Federer all'inedito Söderberg. Ne parleremo più tardi con Dario Puppo, così come più tardi parleremo della griglia di partenza di Istanbul, perché le prove libere del venerdì, come al solito parecchio bugiarde, avevano dato qualche speranza agli inseguitori del nuovo ordine costituito, Red Bull e Bron. Le prove del sabato già ci lasciano intravedere, leggendo la griglia di partenza, una corsa non molto diversa da quelle cui ci stiamo abituando quest'anno. In prima fila infatti Sebastian Vettel sulla Red Bull, accanto a lui partirà il leader del mondiale Jenson Button, seconda fila per Barrichello con l'altra Brawn e per Webber con l'altra Red Bull. In terza fila cominciano i normali, tra virgolette, Trulli accanto a Raikkonen, sesto tempo per la prima delle Ferrari. Quarta fila per Massa e Alonso e via via tutti gli altri. Più tardi parleremo anche di questo, così come parleremo dopo le 17:30 di mercato, di calcio mercato, con grandi movimenti in questi primi giorni del dopo campionato. Però non so se siete d'accordo, movimenti non del tutto imprevedibili. Tra Ancelotti che va via dal Milan e va al Chelsea, se ne parla da mesi, così come da mesi si parla di Kakà che va al Real Madrid. Sono tutte concretizzazioni di discorsi che risalgono indietro nel tempo. Adesso però ci concentriamo, per cominciare e come al solito al sabato, sul rugby, perché lì è finito il campionato, sta per iniziare l'estate azzurra, ne parliamo subito. Palla ovale. Buongiorno Giacomo Bagnasco. Buon pomeriggio Carlo e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Dunque salutiamo il campionato con la Benetton, di nuovo campione d'Italia. Insomma, un lungo ciclo quello di Treviso, perché insomma, alla fine che conta è arrivare in fondo, non soltanto mettere le mani sul trofeo, vincere la finale in partita secca. Però è una lunga dinastia quella di Treviso, una dinastia che ricorda un po' quella di Siena nella pallacanestro. Di Siena si è detto molto, io vorrei capire da te qual è la ricetta trevigiana. Soldi senz'altro, grande organizzazione e competenza senz'altro, ma vorrei chiederti se c'è dell'altro. Ma io penso che queste due cose siano fondamentali. C'è probabilmente anche una tradizione, un'abitudine ormai a essere ai livelli più alti. Treviso che ha vinto 11 dei suoi 14 scudetti dall'89 a oggi, quindi una squadra che rimane costantemente al vertice, che da quando sono stati istituiti i playoff è sempre arrivata quantomeno in semifinale e 19 volte in finale, quindi a questi livelli ci si trova una formazione per forza matura, anche perché naturalmente ci potrà essere un turnover, ma comunque un certo know-how viene certo trasmesso anche ai nuovi. Io direi che i punti di forza sono questi, che sono anche punti di debolezza probabilmente per il campionato. Ecco, il fatto di non saper certo proporre alternative a questo trio Viadana, Treviso e Calvisano è un po' grave. Ecco, certo. Treviso in finale quasi sempre, Treviso che ha perso l'anno scorso da Calvisano ma che ha vinto 5 degli ultimi 7 titoli. Ricordiamo il punteggio finale di sabato 29-20 per una partita che è stata complessivamente comunque un po' più tirata. Benetton era in vantaggio 19-10, si è trovato in svantaggio 20-19, ma poi ha accelerato ancora e ha poi suggellato nei minuti di recupero con una meta e lo scudetto con un punteggio anche abbastanza ampio. Sì, non c'è dubbio, tu hai ragione quando dici che alla fine le grandi dinastie sono un sintomo di debolezza del movimento, vale nel rugby ma vale a maggior ragione nel basket. Sta per iniziare, inizierà martedì la serie di finale scudetto con un esito che insomma io immagino assolutamente scontato, con Siena di nuovo campione d'Italia. Giacomo, che cosa ha detto nel complesso questo Super 10, questa edizione del Super 10? Guarda, io penso che appunto abbia confermato una realtà che potrebbe essere in crescita, anche se si ritrova a quanto pare purtroppo ancora con problemi organizzativi e finanziari come Rovigo. E poi l'abbiamo detto, ci sono queste tre squadre che sono abbonate alle semifinali, c'è un in basso, c'è stata una buona ripresa nella seconda parte del campionato delle formazioni romane, onora la Capitolina che ha saputo salvarsi, ma che forse adesso non si iscriverà a questo Super 10. In questo caso si potrebbero aprire delle possibilità anche per l'Aquila, che, lo ricordiamo, è arrivata seconda nel campionato di Serie A. C'è stata la finale in un Flaminio, diciamo, tutt'altro che granito sabato scorso. Prima si è giocata la finale di Serie A, vinta meritatamente dopo i tempi supplementari dal Prato 25-18 sull'Aquila, e poi c'è stata la finale di campionato. Vedremo come sarà il prossimo Super 10, sicuramente un campionato strano, perché si sa che è l'ultimo, certo, che si giocherà con questa formula, e soprattutto per l'ultima volta tutti i migliori giocatori delle formazioni tesserati per formazioni italiane giocheranno nel Super 10, perché poi si aprirà la grande avventura della Magners Celtic League. Intanto, Carlo, una cosa interessante da dire: hai detto giustamente che si sta per aprirsi una serie di finale del basket che sembra a senso unico. Ecco, tutt'altro che a senso unico invece l'appuntamento di stasera, 20:45 Eurosport 2 per chi ha il satellite, che è la finale del campionato francese. In questo caso, negli ultimi anni c'era stato anche in questo caso un dominio di tre squadre, Tolosa, Stade Français e Biarritz. Invece stavolta usciamo dal seminato e la finale è Clermont-Auvergne-Perpignan. Un sacco di motivi di interesse, un giocatore italiano in campo, Gonzalo Canale, nel Clermont-Auvergne, che deve sconfiggere una maledizione perfino difficile da credere. Questa squadra è arrivata 9 volte in finale finora, stasera la decima, e per 9 volte ha perso la finale. Io credo che siamo a livelli di record. Alla faccia. In compenso ha vinto 7 titoli, ma l'ultimo nel 55. Quindi un record ci scappa. No, alla faccia della legge dei grandi numeri. Ci si può immaginare la fame di queste due squadre, mentre squadre, appunto, c'è Gonzalo Canale, ripeto, in formazione, mentre sono rimasti fuori, eliminati in semifinale, i fratelli Bergamasco e Paris nello Stade Français, quindi hanno già raggiunto la nazionale italiana, che si sta preparando a questi tre test match durissimi, lo ricordiamo. A questo proposito, Giacomo, guarda, ti giro, giusto per chiudere, non ho dato i contatti, ma naturalmente sono quelli di sempre, 800240024 per le vostre chiamate, messaggi 349-238-6666, un messaggio già arrivato da Treviso, Alessio: ho già paura per la tournée della nazionale, scrive. Possiamo evitare di aver paura in un certo senso, perché è chiaro che l'Italia non può andare con l'idea di competere alla pari né con l'Australia, che affronteremo due volte, né con la Nuova Zelanda. L'importante sarebbe cercare di dare segnali positivi dopo un brutto 6 nazioni. Si riparte con un dettaglio tecnico che torna a nostro favore, cioè non sarà più possibile far crollare le molle. Il punto, lo sappiamo, ormai l'abbiamo detto tante volte, uno dei punti di forza della mischia azzurra. Si partirà con molta curiosità anche per il quasi certo impiego all'apertura di questo Craig Gower, giocatore australiano di nonno italiano, che quindi è diventato eleggibile per la nazionale italiana, un giocatore che fino a 2 anni fa era un asso in patria del rugby a 13, che è passato al rugby a 15, gioca in Francia nel Bayonne, ha giocato un buon campionato, ci sono state parole di stima per lui anche da parte di Sergio Parisse, un giocatore con dei trascorsi turbolenti fuori dal campo, ma comunque vediamo che cosa può dare all'Italia questo 31enne, speriamo che non sia l'ennesima meteora, e speriamo che qualche volta si possa superare l'idea che il giocatore straniero, tutto sommato, ha un po' più fascino di quello italiano quando si tratta di scegliere. Grazie Giacomo, alla prossima. Grazie a voi. Grazie Giacomo Bagnasco. Oggi non c'è l'appuntamento con il traffico, dunque passiamo direttamente oltre riprendendo la notizia di apertura, cioè prima fila Sebastian Vettel su Red Bull, accanto a lui Jenson Button su Brown, seconda fila stessa salsa, Brown con Barrichello e Webber su Red Bull, e poi cominciano, come ho detto prima, i normali, Trulli, Raikkonen con la prima Ferrari in terza fila, quarta Massa, Alonso, quinta Rosberg e Kubica con la BMW che si riaffaccia a metà schieramento, sesta fila Heidfeld e Nakajima, settima per Glock e Kovalainen, ottava per Sutil e Lewis Hamilton, che onestamente non riusciamo ad abituarci a vedere così in basso sulla McLaren, però tant'è, nona fila Piquet e Buemi, decima fila Fisichella e Bourdais. Questo hanno detto le prove di Istanbul, Turchia, dove l'interesse per la Formula 1 non mi sembra proprio ai massimi storici. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, buongiorno a tutti. Mario, le prove di ieri avevano, come al solito, venerdì Bugiardo che aveva scritto delle cose strane, poi al sabato già tutti in riga e domani ne riparliamo. Sì, ti dirò, il discorso delle prove di venerdì, purtroppo da quando mancano le prove extra gran premio in cui si fa lo sgrossamento, la messa a punto di particolari nuovi, è chiaro che viene fatta il venerdì, quindi il venerdì non è più probante. Infatti se qualcuno ha seguito le immagini di queste prove, vedeva che era un continuo mettere e togliere pezzi di plastica, diciamo così, o più pomposamente di carbonio, per le varie modificazioni dei deviatori di flusso. Tra l'altro stanno facendo delle cose così sensazionali che adesso hanno addirittura troppo carico aerodinamico, per cui le gomme non reggono. Quindi i risultati di oggi però un indirizzo chiaro lo danno, e certo, cioè questo campionato ormai sembra appunto una disputa, come già avevamo del resto detto, tra la Brown e la Red Bull, con questo Vettel che effettivamente va fortissimo, perché anche ieri si è rotto il motore, e però ha sempre tenuto, e aveva il quarto tempo e ha tenuto il quinto, e oggi ha girato relativamente poco, quindi è sicuramente oggi quello che riteniamo il pilota più forte del momento. Sì. Tant'è vero che secondo me io credo che Button dovrebbe puntare anche molto sulla regolarità, perché non dimentichiamoci che lui ha 51 punti contro 35 di Barrichello e 23 di Vettel. Se capita qualcosa a Button, cioè non riesce a classificarsi nei punti e Vettel vince, va già a 43, che vuol dire solo 8 punti di stacco. Quindi il discorso si sta facendo divertente sotto certi punti di vista, complicato per chi oggi si trova in testa al campionato, e un po' complicato anche per la Ferrari, la cui crescita comunque secondo me ci sarà, certo, alla luce di quello che si è visto oggi, considerarlo protagonista per essere ai vertici dei mondiali, sia piloti che costruttori, è piuttosto ottimistico. Sì, meno male che Button ieri si era lamentato della scarsa aderenza, di fronte a tempi non brillanti, ha detto ma non ho bleffato, la macchina ha poca aderenza oggi, secondo tempo. Sì. Poi sono d'accordo, questo Vettel va fortissimo e guida una gran macchina. D'altra parte teniamo anche presente che queste gomme fanno dannare, perché certo, portano sempre delle gomme che sembra facciano apposta per mobilizzare l'ambiente, non sono quelle che rispondono. Infatti il problema della gara di domani è, non hanno ancora comunicato i pesi, quindi non si riesce a capire esattamente quanto carburante hanno, però si è parlato molto della possibilità di fare tre soste, perché se uno dei tipi di gomma, diciamo per esempio la più morbida, si dovesse consumare nel giro di pochi giri, è meglio partire con poca benzina in modo da fermarsi e poi fare una terza sosta, viaggiando sempre quindi con la macchina relativamente leggera. Però per chiudere il discorso ti dirò che dal paddock deserto, come deserto il circuito di Istanbul, viene un po' una notizia che rappresenta il secondo fronte nella lotta tra la FIA e la FOTA, e cioè si comincia a parlare del fatto che le televisioni, in particolare ovviamente la televisione italiana, ma anche i giapponesi, eccetera, dicono che se nel campionato futuro non ci dovesse essere la Ferrari, certo, loro vogliono ridiscutere tutto. Normale, ma cioè, alla fine i team, la FIA può dire quello che vuole, fa parte del gioco, però i team hanno il coltello dalla parte del manico. Leggevo un'intervista a Briatore un po' divertita su questo, però è chiaro che se non ci sono i grandi team e non ci sono i grandi piloti, guarda la tua Formula 1 che sarà, che mi viene da ridere, insomma. Sì, certo. E vediamo che cosa succederà. Intanto godiamoci la corsa di domani e vediamo. Senti, tre pit stop domani? Come? Tre pit stop secondo te domani? Corsa da, da tre soste? Ma può darsi una Ferrari, magari è una Brawn. Così occhio e croce, però sai, come ti dico, non avere in mano i pesi, certo. Questi qua della federazione dicono che li danno 2 ore dopo, e 2 ore dopo per noi sarebbe già sufficiente, invece io sono stato davanti al computer fino a un secondo fa, i tempi non sono, i pesi non sono ancora usciti, perché sono un po' quelli che poi fanno capire, certo, come realmente si svolgerà. Saranno le strategie. Mario, ci sentiamo domani per parlarne. D'accordo, arrivederci a tutti. Grazie Mario Poltronieri, appuntamento domani, già ve lo dico, in apertura di programma alle 17, non finito il campionato di Serie A, mi viene da dire per fortuna, ma lo dico sottovoce, domani comunque parliamo, torniamo a parlare di calcio, ma apriremo il programma, 17-19 saremo insieme, e apriremo il programma proprio con la Formula 1, prima di buttarci sui temi calcistici che ci lascerà questa serata, nazionale sperimentale, il debutto di Santone, eccetera, in prospettiva con Federation Cup, ma sono altri, ho l'impressione, i temi che appassionano gli ascoltatori in questo momento, che insomma, nuovo allenatore della Juventus, Zenga, questa è la vera sorpresa del mercato, secondo me, Zenga che insomma che lascia il Catania per andare a Palermo, e questa non me l'aspettavo, tutte le altre un po' sì, vi confesso, forse ve l'ho anche già detto. Andiamo però, torniamo alla cronaca, quanto al resto dopo, torniamo alla cronaca per l'altra notizia che vi ho dato in apertura di programma, e cioè la regina di Parigi. Dario Puppo, buongiorno. Ciao Carlo, un saluto a tutti quanti. La regina è russa, ma questo già si sapeva, bastava leggere il cartellone della finale. È Svetlana Kuznetsova. Direi che lo ha meritato, nel senso che è tutta la stagione che magari ha sprazzi negli altri tornei di preparazione ai French Open, ha dimostrato di avere una marcia in più. In questo momento il tennis femminile cerca di trovare personaggi come Justine Henin che siano in grado di dare continuità in termini di prestazioni, e lei ha sempre avuto questo tipo di problema, parlo della Kuznetsova, e invece durante il torneo ha faticato, battuto soprattutto la partita più importante, probabilmente è stata quella nei quarti di finale con Serena Williams, è stata veramente una grandissima battaglia al terzo set. Superato quell'ostacolo ha capito che il suo torneo poteva forse essere in discesa, oggi non ha avuto grandi difficoltà, è andata sotto di un break subito nel primo set, proprio nel game d'apertura, poi dopo ha fatto 8 punti consecutivi, è andata 2-1 e da lì insomma le cose sono state più semplici. Parafrasando quella che è una delle affermazioni forse dell'anno sportivamente parlando, invece la numero uno del mondo, che è l'altra russa, la Safina, zero titoli. Ha giocato 3 finali, non ha mai vinto un torneo dello Slam ed è il numero uno del mondo. Questo di solito genera molte polemiche, era successo anche con Rios anni fa. Non è facile uscire da questo vortice negativo, per cui vedremo se nei prossimi mesi, tra l'altro la superficie in cui forse lei si esprime meglio, la Safina, la sorellona di Mara Safin, è proprio la terra probabilmente. Sul cemento gioca bene, ma ci sono altre più competitive o comunque tanto competitive quanto lei, quindi non sarà facile tenere quel numero uno mondiale. La Kuznetsova invece potrebbe prendere fiducia, ha lasciato in qualche modo, si è messa in proprio, ha scelto un altro coach che non più diciamo l'estrazione spagnola, i Sanchez, e pare che questo l'abbia in qualche modo responsabilizzata nella maniera giusta. Quindi credo che potrà fare strada la Kuznetsova, che invece ha vinto il secondo titolo dello Slam perché aveva già vinto US Open nel 2004. Dario, ci sentiamo domani per capire chi ballerà il valzer alla serata di gala parigina, se Sua Maestà Federer o l'underdog Soderberg. Lo scopriamo domani, domani e ne parliamo insieme. Grazie Dario Puppo, adesso andiamo di corsa a sentire un appuntamento ormai fisso del sabato, ed è il segno di Zorro. Zorro, il segno suo è la zeta. Il segno di Zorro. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, archiviata la stagione di club con la splendida vittoria di Piacenza, oggi rivolgiamo lo sguardo all'estate che di solito è dedicata ai tornei delle nazionali maschili e femminile. World League con finali a Belgrado, Giochi del Mediterraneo con finali a Pescara e Europei in Turchia sono gli appuntamenti principali della nazionale maschile. Oggi parliamo proprio di nazionale maschile con un carissimo amico collegato a telefono. Piccola avvertenza per i radioascoltatori: di solito non mi piace usare i soprannomi, però visto che anche l'ospite si chiama Andrea, per evitare confusioni lo chiamerò Gardo. Quindi benvenuto caro Andrea Gardini. Buon buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito a partecipare a questa trasmissione. Iniziamo come tra amici, come stai? Tutto bene, benissimo direi per il momento, si avvicinano le gare per cui la tensione sale, c'è il piacere di essere parte di un grande progetto. Vi state allenando con la nazionale a Mantova, vero? Sì, abbiamo scelto questa sede del ritiro perché abbiamo trovato le condizioni ideali per poter lavorare anche nei momenti di grande caldo, uno dei pochi palazzetti appositamente attrezzato con aria condizionata per cui riusciamo a sviluppare lavori interessanti anche nelle giornate più torride. Perfetto, ma come sempre presentiamo l'ospite con una piccola scheda. Andrea Gardini è nato a Bagnacavallo, Ravenna, il 1 ottobre 1965. È stato uno dei giocatori più vincenti della storia del volley italiano, avendo vinto 7 scudetti in 4 società diverse, Ravenna, Treviso, Roma e Modena. È stato uno dei punti di forza della nazionale italiana negli anni 90, protagonista di 3 vittorie consecutive ai campionati del mondo nel 90, 94 e 98. Per completare il suo palmarès, bisogna aggiungere 4 europei, 6 World League, una Coppa del Mondo e 2 medaglie alle Olimpiadi, argento nel 1996 e bronzo nel 2000. Dopo il ritiro nel 2004, ha fatto il direttore sportivo a Modena e Milano. Da 2 anni è assistente nella nazionale maschile. È stato il primo italiano ad essere accolto nella Volleyball Hall of Fame e la cerimonia si è tenuta l'11 ottobre 2007. Allora, Gardo, com'è stato essere accolti in questo straordinario museo della pallavolo mondiale? Beh, ha fatto uno strano effetto in tutti i sensi, innanzitutto perché essere accolto in un museo ti fa un po' pensare, vuol dire a che punto della tua vita, della tua carriera sportiva sei arrivato. E dall'altro punto di vista è stato un grandissimo onore, anche perché noi non percepiamo bene la dimensione di questa cosa, mentre gli americani come al solito sono estremamente bravi nel dare rilevanza a queste grandi manifestazioni, e essere presenti lì durante la cerimonia dell'incoming è stato veramente una sensazione molto forte, una delle più forti che ho provato nella mia carriera sportiva. Bravo Gardo, complimenti naturalmente per questo ingresso, seguito poi l'anno dopo anche da Andrea Gianni. A proposito di Gianni e di altri atleti di quella generazione dei fenomeni che passano direttamente dal campo alla panchina, Sartoretti in questi giorni ha fatto questo passaggio veloce. Tu cosa ne pensi? Penso che sia una grande opportunità, perché ovviamente in tutti questi ragazzi, cioè in noi che abbiamo giocato tanti anni ad alto livello, sia in campionato che in nazionale, c'è un grande patrimonio di esperienze, di conoscenze che può essere trasmesso. Penso che il passaggio sia anche molto complesso. Normalmente ex giocatori si è abituati a pensare ancora un po' troppo come giocatori, all'individualità, ai propri problemi, mentre il lavoro del coach oggigiorno lo è sempre stato, ma comunque oggi più che mai è estremamente complesso. È il gruppo, è la complessità dei ragazzi, il gestire le personalità diverse che richiede tempo, abilità e conoscenza, e poi ognuno di questi ragazzi dovrà crearsi un proprio percorso facendo le proprie esperienze, e magari tra qualcuno di questi ci sarà un grande allenatore del futuro, perché no? Tu per qualche anno hai fatto anche il dirigente a Modena e anche un po' a Milano. Avresti puntato su un atleta bravo, esperto, ma che non ha esperienza di panchina? Non lo so, bisogna vedere i momenti, conoscere le proprie squadre, gli uomini che ha a disposizione. Su alcuni giocatori magari avrei anche potuto puntare, se avendo una squadra di un certo tipo, perché alcuni giocatori di fatto sono stati un po' degli allenatori in campo per un certo periodo. È chiaro che poi dopo le idee devono essere avallate dalle prove, dai fatti, per cui bisogna poi vederli sul campo, però qualche possibilità ci sarebbe stata. Torniamo all'attualità un po' più stringente, diciamo World League è il primo grande torneo che sta per iniziare ed è uno degli appuntamenti principali della vostra stagione, come sta andando? Stiamo mettendo insieme un gruppo in gran parte nuovo, sono pochissimi ragazzi reduci dall'ultima Olimpiade e questo è abbastanza fisiologico. Normalmente i cicli olimpici, dopo il ciclo olimpico vengono rinnovate le squadre e si incominciano a gettare le basi per il quadriennio successivo. Noi abbiamo inserito in questo gruppo molti ragazzi, alcuni giovani, alcuni meno giovani, con le prime esperienze anche in nazionale, però direi che abbiamo creato perlomeno per ora un bel gruppo con una buona disponibilità al lavoro e al sacrificio, e questo è già un buon passo avanti. Stiamo stiamo lavorando su diversi accorgimenti tecnici che richiedono un po' di tempo e dovranno passare al vaglio delle grandi manifestazioni, dei grandi partiti. È chiaro che diamo una grande importanza alla World League. Per noi la World League è una manifestazione che negli ultimi anni non ci ha visto partecipi nelle finali, e ci piacerebbe molto riuscire ad arrivare a Belgrado per vedere a che punto è la nostra pallavolo. Tu e Anastasia avete fatto tesoro dell'ultima esperienza alle Olimpiadi? Direi di sì, assolutamente. Direi che la gestione del gruppo alle Olimpiadi, a mio modo di vedere, è stata ottimale. Noi abbiamo ereditato la nazionale con non pochi problemi di gestione del gruppo, giocatori che non volevano più partecipare alla squadra azzurra, e di fatto siamo riusciti a compattare i ragazzi intorno a questo grande obiettivo, a questa grande opportunità. Abbiamo espresso anche buona pallavolo per larghi momenti, abbiamo poi avuto difficoltà in una semifinale contro una grande squadra, ma questo ci può stare, questo fa parte del gioco. L'importante era che la squadra fosse unita e compatta nel tentativo di raggiungere un obiettivo. Senti, da buoni vecchietti chiudiamo pensando al passato. Mi devi aiutare però, perché io ti racconto un aneddoto che tu conosci benissimo, ma alla fine devi chiudere con una frase ormai storica. Quindi il contesto è questo, fate attenzione. Vediamo se me lo ricordo. Bravo. Tanti anni fa, trasferta in una squadra, giocavi a Ravenna, trasferta lunghissima. Andate a giocare, un compagno importante in attacco gioca così così ed è un eufemismo. Dopo la settima murata consecutiva voi gli dite, lo invitate gentilmente a trovare altre alternative. Il ragazzo, un po' seccato, risponde: «Soi ha fatto 200 km per fede di pallonette?» Che tradotto significherebbe: «Che cosa ho fatto 200 km per fare dei pallonetti?» Era un po' lo spirito del tempo. Esattamente. Con questo, Gardo, ti ringrazio molto. In bocca al lupo per l'estate. Speriamo di sentirci presto. Grazie davvero. Grazie a voi e crepi il lupo per la nostra estate. Crepi il lupo. Anch'io vi saluto. Ci sentiamo sabato prossimo su Radio 24. Ciao a tutti da Andrea Zorzi. Torno ricordandovi i nostri contatti, perché mi sa che qui è opportuno, anche se domani sull'argomento calciomercato torneremo con maggiore spazio, avremo maggiori possibilità di dialogare, però ho voglia di parlarne anche oggi e subito. 800 24 00 24, numero verde messaggi 349 238 6666. A me piace sentir parlare di calciomercato, ma mi piace sentir parlare di calciomercato da chi conosce le cose sul serio, come Carlo Laudisi, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo, grazie. È un piacere anche per me, ovviamente. Un saluto, Carlo, a tutti. Sono successe già un sacco di cose in questa prima settimana senza campionato. Sì. Ma posso dire che cose davvero sorprendenti no, perché è la chiusura di storie di cui si parla da tempo. Ancelotti che va via e va al Chelsea, Kakà che va al Real Madrid, Ferrara che è storia più breve, però non dall'esito inatteso, che rimane sulla panchina della Juventus. Ecco, l'unica cosa che mi ha sorpreso è Zenga che salta al fosso da Catania a Palermo. Questa me l'aspettavo un po' di meno. Sì, no, mi concedi una battuta, visto che hai fatto la premessa sul calciomercato, che spesso è accompagnato anche, come dire, da diceria, che si scrivono tante cose solo per scriverle e per prendere un po' in giro le persone. In realtà la premessa che hai fatto tu quest'anno, molte di queste cose le abbiamo scritte, certo. No? Vale la frase l'abbiamo scritta, e non questo per portare acqua al mulino, ma anche per dire che evidentemente il calcio e l'aspetto mediatico del calcio diventa sempre più importante, il che può avere degli aspetti positivi, e nella fattispecie, anche se ci sono tanti altri negativi, questo è evidente. Certo. E sono d'accordo comunque con te che di tutte queste vicende, anche sulle panchine, quella di Zenga è la più sorprendente, visto che peraltro era vicino alla Lazio. Appunto. C'è stata anche un po' la storia di Ballardini, resta anche strana, perché che dice va all'Atalanta, invece no, fermi tutti, all'Atalanta ci va Gregucci. No, ma già il fatto stesso che lui abbia rotto con il Palermo, sì. E allora in genere si rompe perché si ha qualcosa in mano. Ma da come si stanno mettendo le cose, Ballardini sembra davvero che non abbia nulla in mano, perché se fosse stata l'Atalanta sarebbe stata così, ma sì. È evidente che è una storia sui generis in un'estate in cui più di un allenatore ha troncato il rapporto con la società nonostante un contratto in mano. Lo stesso Zenga che ha detto: no, ma credetemi, io non ho niente in mano, l'aveva detto l'altra sera quando ha annunciato il suo divorzio dal Catania, ha detto a Massimo Mauro, mi ricordo ancora la trasmissione su Sky: no, tu mi conosci, sai che se dico così è così, in mano non ho niente. Sì, non aveva nulla di scritto in mano, così come per esempio Del Neri, quando ha rotto con l'Atalanta sembrava che avesse qualcosa di pronto con l'Udinese, in realtà i fatti hanno dimostrato che solo strada facendo poi ha trovato l'accordo con la Sampdoria. Questo potrebbe anche essere per certi versi un segno anche, come dire, di maturità delle società, degli allenatori, che quando le cose non vanno si separano civilmente senza poi andare a far leva sull'aspetto finanziario, che, perché è oneroso, certo, che certo, evidentemente certo. Certi allenatori, determinati allenatori guadagnano tanto, poi il fatto che alcuni di essi rinuncino o comunque si mettano in gioco è la dimostrazione forse che anche c'è molto stress, perché in alcune situazioni gli allenatori poi diventano il capro espiatorio degli ambienti che dove o si è già fatto più del dovuto o non ci si accontenta di quel che è successo. Certo, certo. Carlo, invece sulla questione, altra questione già sviscerata, quella di Kakà, insomma stavolta va via davvero, anzi è già andato al di là del temporeggiare di Berlusconi. Le cortine fumogene preelettorali. Bravissimo, esce l'altro giorno un'agenzia. Aspetta, forse va via, però ci devo parlare, vi dirò tutto lunedì, ma guarda un po', non sabato o domenica, ma lunedì. Però nel frattempo c'è l'altro scaricabarile, sì. È quello più significativo, perché sì. Kakà dice io resto io alla Gazzetta, guarda caso Berlusconi invece ci fa capire che è Kakà che vuole andare via. Ma sai, questa è la cosa più fastidiosa di tutte. Appunto. Perché però, ci sta anche vendere la gentileria di famiglia, anche se questo è inedito nel Milan, come ha scritto già un paio di volte in questa settimana Alberto Costa. Prima volta che il Milan ammaina una bandiera nella sua storia, e la bandiera che scende è quella di Kakà, mai successo prima. Quindi vuol dire che il Milan vende, che al Milan si può comprare Pirlo, si può comprare Pato, tutti sono in vendita, ma ci sta anche, basta dirlo, basta essere chiari. Su questo non sono d'accordo, perché era già accaduto con Shevchenko e il Milan è stato vincente in quella scelta. Sì. Il Milan ha sbagliato semmai l'estate scorsa a riprendercelo, ma lo ha venduto al meglio, aveva evidentemente già dato tutto, e quindi è potuto ripartire in quel momento con un Kakà emerso, ma non già campione ai livelli che ormai gli dobbiamo riconoscere. Quindi è stato anche quello il passaggio in cui già abbiamo visto che il Milan si era reso conto della nuova realtà. Io piuttosto sono tra virgolette contento che le nostre società stiano riguadagnando il senso della realtà, perché abbiamo in questi ultimi anni assoldato, e non uso a caso questo termine, i due migliori giocatori forse al mondo, ma anche quelli più pagati, Ibrahimovic e Kakà. Ibrahimovic, ricordiamolo, sono 12 netti e per aver fatto 20 gol quest'anno ha avuto un premio di 1,5 milioni. Quindi quest'anno lui al netto ha guadagnato 13,5 milioni dall'Inter, che ricordiamolo sempre, al doppio sono 27 milioni. Sì, Quindi ecco, è uno sproposito. Non sono parte del prezzo di gol, vengono pagati extra. No, appunto, a parte questo, ma io dico, nel momento in cui in Europa i migliori calciatori in assoluto, cioè Messi e Cristiano Ronaldo, guadagnano 7,5 milioni di euro e i nostri già guadagnano di più e vogliono andarsene, allora evidentemente non c'è più il senso del limite. Sì. E i nostri club, nel momento in cui ripartono senza di loro, sì, emotivamente e tecnicamente hanno un danno immediato, ma in prospettiva si stanno semplicemente riposizionando per un futuro più sano e più anche logico per la realtà di questi dei nostri giorni. Appuntamento con Carlo Laudisi, inviato dalla Gazzetta dello Sport, e invece subito per chiudere e chiarire sulla vicenda Ibrahimovic. La mia impressione, ma è personalissima, non ho alcun elemento che possa avvalorarla, è che Ibrahimovic resterà all'Inter. Sicuramente non è certo che lui vada via, perché Massimo Moratti, lui sì che si affeziona personalmente alle sue stelle, quindi c'è questa probabilità. Io però ho l'impressione che i grandi club d'Europa in questo momento, cioè Barcellona, Real e Chelsea, si stanno facendo una guerra sul mercato in cui sicuramente Ibrahimovic è strategico, per cui siamo solo all'inizio di una partita in cui il Barcellona è partito basso, perché 25 milioni più Eto'o sono oggettivamente pochi, ma se ci sarà il rialzo, come temo tra virgolette avverrà, allora la tua previsione potrebbe essere smentita, a meno che appunto il Barcellona effettivamente e alla fine rinnovi il contratto Eto'o e allora resti com'è, il Real Madrid prende Cristiano Ronaldo e Ribéry e il Chelsea invece non fa nulla, ma ecco, mi stupisce che il Chelsea non faccia nulla. Quindi per la teoria dei vasi comunicanti qualcosa su Ibrahimovic fatalmente dovrà avvenire. Sì, anche se per quanto riguarda la trattativa a Barcellona non riesco a capire come possa arrivare un giocatore da 12 milioni netti all'anno di stipendio, e cosa dice Messi che ne prende 7? Ma in questo, ecco, abbiamo accennato prima al discorso dei premi, no? O comunque c'è l'aspetto pubblicitario. Per esempio, facciamo un esempio molto chiaro, il merchandising in Spagna ha un successo economico molto più sensibile che in Italia, anche per i problemi che ancora noi non abbiamo risolto sul piano delle falsificazioni. Sì. Quindi lì c'è un mercato più ricco, al di là del contratto. E non a caso Raiola, l'agente di Ibrahimovic, nelle scorse settimane aveva fatto la battuta che Ibra si sarebbe anche accontentato di avere lo stipendio delle altre stelle del Barça al patto di avere determinate garanzie su un progetto tecnico economico, lui dice, ma che poi in realtà secondo me significa garantirsi altri contratti pubblicitari, magari la prospettiva davvero di entrare in ballo per il pallone d'oro e quindi anche la sicurezza di fargli evitare i propri guadagni in maniera considerevole in prospettiva. Sì, allora per chiudere ti giro un sms di un ascoltatore su questo argomento: quanto possono contare sponsor come Adidas e Nike nelle trattative, nelle destinazioni di Kaká, Ibrahimovic e altri big? Sicuramente molto. Allora, entrando nello specifico, senza fare pubblicità, ma la dobbiamo fare, è la cronaca, Ibra è un uomo Nike, sì. E ha un contratto già importante, lui ritiene di essere il numero uno e lui si aspetta un aumento ulteriore da Nike, sì. Che evidentemente rimanendo all'Inter senza vincere qualcosa di importante in Europa subito, sì. Sottolineo il subito, lui non può avere, quindi sì, e la sua scommessa sì, è anche questa, certo. Anche soprattutto questa. Grazie Carlo, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. Grazie a tutti. Davvero. Carlo Laudisa, ciao. Inviato della Gazzetta dello Sport, domani torneremo, avremo due ore, tanto per cominciare vi riepilogo gli appuntamenti di domani, perché c'è una variazione rispetto al programma abituale, perché saremo come sempre in onda dalle 17 alle 19, con A Tempo di Sport, parleremo di Formula 1, parleremo naturalmente di calcio, di tennis, eccetera, eccetera, eccetera, di tutto ciò che succede domani. Quindi dalle 20.10 fino alle 20.30 un bel riassunto della Domenica dello Sport, e poi c'è il basket domani sera, però attenzione, non dalle 22 alle 22.30 come da cartellone, bensì mezz'ora prima, dalle 21.30 fino alle 22, perché ovviamente sapete cosa succede domani, no? Speciale elezioni, vi racconteremo tutto sul voto. Adesso invece vi raccontiamo tutto sul basket e in particolare sul basket NBA. Flavio Tranquillo, buonasera. Buonasera. Buonasera, gara 1. Voglio parlare di NBA con te Flavio, sul campionato ci andiamo domani. Però gara 1, LA, Kobe 40 punti in 35 tiri. Ieri era qui con me Fabrizio Frates. Ne parlavamo e dicevamo, ma quanti tiri ha fatto Kobe Bryant? 35. Un po' tanti, non so se sia il massimo della vita per i disegni di Phil Jackson. Da Collins, che è un ex allenatore, adesso un eccellente commentatore televisivo, dice che bisogna dividere i tiri che fa Kobe, i punti che fa Kobe per i tiri, e se il coefficiente è più di 1,4 gli altri non hanno speranze, se il coefficiente è 1 o sotto vincono gli altri, in mezzo dipende. Il che secondo me è un'eccellente regola, solo che in questo caso contro gli Orlando Magic, e io penso che i Magic possano anche sostenere 40 punti con 34 tiri di Kobe Bryant, specie se dentro ci sono 6 tiri liberi e non 12 o 24. Il problema è che devono poi fare un canestro ogni tanto, altrimenti è tutto inutile. non c'è dubbio. Gasol si conferma piuttosto giocatore chiave, che ne tira 11-12, del secondo in classifica come tiri tentati nella gara 1 dei Lakers, però si conferma giocatore chiave per gli equilibri giallo-viola. o no? Assolutamente, lui e Odom, perché a quel punto, se lui e Odom danno questa continuità, avere Bynum è un buon lusso, specie contro Howard, sono falli da spendere. Comunque Bynum è un giocatore, l'ho dimostrato in gara 1, che può avere un momento della partita, specialmente all'inizio, dove gli dai 3 palloni, magari fa 2 canestri. Allora a quel punto Bynum, se è un di più rispetto a Odom e Gasol, integra perfettamente la rotazione dei lunghi. Se invece Odom o Gasol hanno dei problemi e tu dipendi tanto da Bynum, allora può essere un problema per i Lakers più che per gli avversari. Certo. Tornando al discorso che facevi prima, invece la vera delusione è stata Orlando, con qualche polemica, perché leggevo oggi delle prime valutazioni sui tempi giocati di Houston, che ha detto ma sono stato seduto 3/4 d'ora. Ovviamente Van Gundy gli ha risposto non è vero, non è così, comunque non lo faccio più. Ho sentito Dwight Howard parlare di dire dobbiamo usare più energia, avere più concentrazione, dovrebbero essere cose scontate in una finale NBA. C'è qualcosa che non va? Direi che prima di dire che o se c'è qualcosa che non va, bisogna almeno aspettare gara 2. Ho visto finali NBA in cui gli stessi giocatori delle stesse squadre da gara 1 a gara 4 cambiavano completamente pelle. Normalmente erano squadre esordienti o comunque non abituate a quel palcoscenico. Penso una per tutte, visto che poi ci sta il paragone, gli Indiana Pacers. Uh-huh. Gara 1 Miller non avrebbe fatto canestro in una vasca da bagno, spazzati via. Gara 2 già meglio ma battuti, gara 3 spazzano via i Lakers e gara 4 hanno la chance. Se gli Orlando Magic superano il problema della prima partita e arrivano comunque in gara 4 sul 2-1 per gli altri, per esempio, sì, hanno una chance di riaprire la serie. Non so e non credo di vincerla, ma di riaprirla, allungarla, io penso di sì. Anche perché c'è la legge dei grandi numeri relativa a Phil Jackson, no? Quando vince la prima, ci dicevi l'altro giorno, non ha ancora perso una serie di playoff. Sì, sarebbe la 44esima volta se ci riuscisse su 44. Ma la delusione di Orlando secondo te da dove nasce? Cioè questo approccio deludente con la finale, da dove nasce? Stanchezza, la serie contro LeBron che ti lascia, dici oh, ce l'ho fatta, mi rilasso un attimo. Da dove può arrivare un approccio alla finale così sottotono? Questa è sicuramente parte della cosa. Le altre ipotesi plausibili sono intanto che giochi contro una squadra che conosci poco, perché è naturalmente dell'altra conference ed è la prima partita ed è un cambio radicale, e oltretutto i Lakers giocano in una maniera molto peculare, nessun altro ha quel sistema offensivo, nessun altro ha probabilmente due giocatori con tutta quella lunghezza soprattutto delle braccia come Odom e Gasol, e quindi ci vuole un po' di tempo per capirli. E poi per come gioca Orlando, quanti tiri butti dentro è più che vitale, ed è possibile che tu, dopo aver avuto la palla che pesava poco perché giocavi contro i Cleveland Cavs delle 66 vittorie che non avevano mai perso in casa, bla bla bla bla bla, per la prima volta arrivi a dire oh mamma, ma non è che adesso vinciamo il titolo NBA, ed è il giorno che tiri il 29 invece del 49, e col 29 non batte proprio nessuno. No, ti viene un po' il braccino. Flavio, per chiudere, sono stati playoff straordinari, secondo me. Tu ne hai vissuti, qualche edizione l'hai vissuta dagli Stati Uniti, da qui commentandola, sai tutto di quel mondo, sono stati playoff straordinari. La torre di vetro di New York in cui ha sede l'NBA, come sta vivendo e percependo questa finale, non il massimo della vita, ecco, perché una riedizione Los Angeles-Boston, perché LeBron contro Kobe avrebbero avuto altro fascino, sono preoccupati oppure no, pur al termine di playoff così belli? Io credo che ormai siano un po' cambiati i tempi. Una volta le finali avevano un sapore più epico, credo per due motivi. Uno, non avevi tanto accesso alle partite di playoff e magari invece alle finali sì, quindi avevano un sapore diverso. Sì. E due, per come era strutturata a livello salariale, di regole, di gestione, la Lega, era più facile che ci fosse, che ne so, in un periodo di 5 anni per 3 volte la stessa finale. Adesso è tutto diverso, lo svantaggio magari è che la finale è un po' meno epica, il vantaggio è che i playoff sono molto più accessibili, molto più visibili e molto più belli, perché c'è un enorme equilibrio, certo. E anche l'anno prossimo sarà così. dove potrebbe un po' cambiare la situazione, secondo me, è dopo la prossima estate, dopo il 2010, uh-huh, quando andranno a riposizionarsi da LeBron James a Wade, a Bosch, a Nowitzki, Ginobili, Red, Steve Nash e molti altri giocatori di questo calibro, allora lì magari potrebbero ricrearsi una o due dinastie, ma credo per quest'anno e l'anno prossimo ci godiamo questi playoff che dalla prima palla a due a quando cadono gli ultimi coriandoli sono veramente molto molto interessanti. Fantastici, fantastici, mai come quest'anno, torno a ripetere. Grazie Flavio, a domani. Senz'altro. Grazie Flavio Tranquillo, sul basket torniamo domani. Domani, già ve lo dico, parleremo invece dei nostri playoff che ci hanno lasciato la finale. Siena, pari imbattibile contro l'Armani Milano. Noi invece chiudiamo qui oggi, grazie a Gigi Borghi in redazione, a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo, domani pomeriggio, come al solito, dalle 17 alle 19, siamo qui per parlare di sport.